24, i gialli della storia. Roma, domenica 25 luglio 1943, la fine del ventennio fascista. Mussolini arrestato, i tedeschi da alleati diventati invasori, l'esercito italiano allo sbando. Chiunque abbia avuto incarichi di regime viene rimosso. In quel pomeriggio di fine luglio, mentre nelle stanze del potere i telefoni ormai squillano a vuoto, firma le sue dimissioni anche il presidente della Federcalcio, il marchese Luigi Ridolfi. Come l'Italia intera, anche il mondo del pallone è nel caos. Molte società lasciano liberi i propri giocatori, facciano quello che vogliono. Di allenarsi d'estate non se ne parla. Eppure, a dispetto di tutto, il calcio italiano non si ferma. Poi, l'8 settembre, l'armistizio. Ma il gioco continua. Il calcio sopravvive nei luoghi e nelle condizioni più estreme, nei campi di concentramento, sotto i bombardamenti, tra la fame e la miseria. Venezia, autunno 43. La Federcalcio della Repubblica Sociale di Salò dà l'annuncio. Il campionato sta per cominciare. Per gli storici dello sport, ha inizio quello che viene definito il Medioevo del calcio. La stagione calcistica 1943-1944 è una stagione strana, giocata in un'Italia divisa in due. A sud gli alleati, a nord i rastrellamenti e la Repubblica di Salò. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è una storia molto particolare di quel periodo. È la storia di un'irriducibile passione per il calcio, che sfida sia le bombe degli alleati che i rastrellamenti nazisti, la fame e la distruzione nelle città e nelle strade. È un racconto in cui la grande storia incontra la vita di tutti i giorni e soprattutto incrocia la magia, il divertimento, la passione degli italiani per il calcio. E per raccontare questa storia ascolteremo le testimonianze dei protagonisti che quella storia l'hanno vissuta in prima persona. Già durante la Grande Guerra il gioco del pallone si dimostra più forte di qualunque conflitto. Perfino nel campo di lavoro di Mauthausen nel 1917 i prigionieri italiani organizzano un piccolo torneo a squadre. Con l'avvento del fascismo il calcio italiano entra nell'era del professionismo. Anche grazie a Vittorio Pozzo, l'Italia vince due mondiali. Il pallone diventa fenomeno di massa, ma anche un formidabile strumento di propaganda del regime. 10 giugno 1940. Per Mussolini è l'ora delle decisioni irrevocabili. L'Italia è in guerra, ma il Duce ha promesso che sarà breve, facile, vittoriosa. Per la Federcalcio tutto continua come se niente fosse. Fino a tutta la primavera 1942, le partite si disputano regolarmente. Il pubblico accorre allo stadio e neppure i primi bombardamenti lo fermano. Il 14 giugno 1942 la Roma festeggia il suo primo scudetto, ma a favorire la sua vittoria è anche il fatto che la capitale finora sia rimasta immune dai bombardamenti alleati. 19 aprile 1942. A San Siro si disputa l'incontro Italia-Spagna. Sugli spalti più di 55.000 tifosi, un record di incassi e di presenze. Sarà l'ultimo incontro disputato dalla nazionale azzurra prima di una pausa forzata, lunga 3 anni. Autunno 1942. Lo scenario di guerra è completamente cambiato. Gli Stati Uniti sono entrati in guerra e la campagna di Russia si sta rivelando una disfatta. In Italia la propaganda fa quello che può e a venirle in soccorso è proprio il calcio. Calcio sul fronte russo. Nelle pause della guerra, durante i periodi di ben meritato riposo, soldati italiani e tedeschi rafforzano il loro fraterno cameratismo con gare sportive come questa, disputata a Stalino tra una squadra italiana ed una germanica. Il 25 aprile 1943 il Torino si aggiudica scudetto e Coppa Italia. A trascinarlo alla vittoria i suoi gioielli, Loic e Mazzola. Come giocatori professionisti anche loro sono stati dispensati dai combattimenti al fronte. 10 luglio 1943. Sebbene Mussolini abbia promesso di fermarli sul bagnasciuga, gli alleati sbarcano in Sicilia. Il 22 luglio la settima armata inglese, dopo aver catturato lungo la strada centinaia di soldati italiani sbandati, arriva alle porte di Palermo. 3 giorni dopo, il 25 luglio, a Roma il regime fascista si sgretola. L'estate del 43 trascorre nel caos fino all'8 settembre, la data dell'armistizio. 24 ore dopo, gli alleati sbarcano a Salerno e puntano dritti sulla capitale. 9 settembre 43. Il nuovo presidente della Federcalcio, Giovanni Mauro, rassicura tifosi e addetti ai lavori. Qualcosa si farà, dice. Ma già nel giro di pochi giorni l'Italia è spaccata in due. L'avanzata degli alleati va a rilento. Il 18 settembre, fuggito da Campo Imperatore, Mussolini proclama da Monaco la Repubblica Sociale, con sede a Salò e molti ministeri a Venezia. Il 27 novembre, in un anonimo appartamento di Venezia, si riunisce quel che resta della Federcalcio. È una sorta di medioevo, se per medioevo si dà alla parola medioevo l'accezione cattiva del termine, no? Non c'è lo Stato è a metà, ma il calcio cerca in qualche modo, come tutti gli sport, di ridarsi una struttura. In serata il comunicato ufficiale. Si giocherà un campionato nazionale misto. Squadre di serie A, B e C giocheranno insieme in gironi regionali che comprendono perfino il Lazio sul fronte meridionale. Solo in seguito, a Dio piacendo, le migliori si misureranno in un girone unico. La notizia ha un effetto benefico su tutto il mondo del pallone. Ad accompagnarla, infatti, anche l'attesa norma sul nulla osta. I giocatori possono giocare ovunque si trovino, indifferentemente dalla società di appartenenza. Molti giocatori che sono riusciti a evitare di essere deportati in Germania non hanno aderito alla Repubblica Sociale o comunque sono fuori dalla guerra e dalla guerra civile, vengono ingaggiati per quel campionato rispetto al luogo in cui si trovano. Ora dunque c'è un motivo in più per aggrapparsi all'irrinunciabile rito del pallone. Per i tifosi un campionato misto significa rovesciare tutte le gerarchie sportive. Per i giocatori qualunque ingaggio significa evitare la scelta definitiva, impugnare le armi da una parte o dall'altra. Bisogna solo trovare una squadra, ma perfino i titolari della nazionale rischiano di restare a spasso. Comporre i gironi e approntare il calendario si rivela poi impresa tutt'altro che facile. I giocatori si arrangiano come possono. Il mitico Pepin Meazza lascia Milano per Varese, dove è sia giocatore che allenatore. Il bomber Ispiro del Genoa preferisce Isola d'Istria, dove è sfollato al club che lo ha lanciato. E perfino Bruno Neri, ex mediano della Fiorentina e della Nazionale, che si è ritirato da 4 anni, trova posto nel Faenza, la squadra della sua città. Anche alla Spezia la condizione dei giocatori tesserati è sempre più difficile. Le bombe degli alleati non hanno risparmiato neppure lo stadio cittadino, l'Alberto Picco. Alfonso Semorile, l'unico dirigente rimasto a gestire la squadra, non può dare nessuna certezza ai suoi ragazzi. E poi i giocatori dello Spezia, per non andare in balia delle onde, in guerra o come, il comandante dei Vigili del Fuoco, Gandino, ha preso tutti i giocatori dello Spezia e li ha fatti diventare Vigili del Fuoco. Ad un primo gruppo di calciatori già arruolati come allievi volontari provvisori si aggiungono Rostagno, Borrini e Amenta. Il portiere Bani, i fratelli Vando e Sergio Persia e Mario Tommaseo. Allora mi vedo venire in casa, venire in casa un amico che era il segretario dei Vigili del Fuoco, e quando l'ho visto ho detto, mi ricordo più come si chiamava, dice: guarda Mario, sono venuto qua perché lo Spezia non partecipa, noi vogliamo prendere il porto dello Spezia. Appartenere ai Vigili del Fuoco significa avere il lasciapassare. I vigili calciatori sono così liberi di allenarsi, superando controlli e posti di blocco, al sicuro dai rastrellamenti dei nazifascisti. Avevamo paura però, perché facevano le retate, guardavano mica tanto sul sottile se eravamo vigili del fuoco o no. Alla Spezia, intanto, a guidare la squadra c'è Ottavio Barbieri, un ragazzo del 99, mediano di Tempra negli anni 20, divenuto un allenatore dai modi schivi e le idee chiare. A fine dicembre del 43, Barbieri chiede ai dirigenti dello Spezia di completare l'organico con alcuni giocatori rimasti disoccupati. Arrivano così Viani, Tori e Angelini, che con il Livorno hanno conteso lo scudetto al Torino, e poi Medica del Liguria e Gramaglia del Napoli. Gennaio 44, l'avanzata alleata è ferma sulla linea Gustav, vicino a Cassino. A nord gli angloamericani intensificano i bombardamenti sulle città, e tra queste la Spezia. Durante queste 6 incursioni, i vigili del fuoco hanno compiuto 1512 interventi per incendi, 105 interventi per crolli, 158 salvataggi di persone ferite o rimaste bloccate nelle macerie, ed hanno recuperato moltissime vittime. I vigili calciatori, in servizio a tutti gli effetti, si allenano sotto le macerie delle tribune dello Stadio Picco, sempre a rischio di nuove incursioni aeree. Allenamenti le facevamo sampo così alla buona, sì, alla buona, non è che c'erano delle volte si facevano, delle volte no. Per gli alleati del resto la Spezia è un obiettivo strategico, sede di industrie belliche e di un arsenale militare che sorge proprio vicino allo stadio. La vita quotidiana è un inferno. Luce, acqua e gas sono erogati ad intermittenza. Le sirene degli allarmi costringono la popolazione a fughe precipitose nei rifugi ad ogni ora del giorno e della notte. Gennaio 44. I giornali annunciano l'avvio del campionato di calcio. Per le squadre più blasonate, le fasi regionali sembrano poco più di una formalità. La Gazzetta dello Sport preferisce soffermarsi sulle favorite per la fase finale. Il decano dei giornalisti sportivi, Mario Zappa, si dilunga sulle squadre meneghine, l'Ambrosiana e il Milano, sebbene indebolite dall'assenza di alcuni titolari finiti sotto le armi. Ma tifosi e addetti ai lavori sanno che la squadra da battere è il Torino. Sulla panchina granata è arrivato Vittorio Pozzo, il leggendario commissario unico di tutte le nazionali azzurre. Comincia il campionato di calcio. Addio domeniche tranquille. Il settimo giorno, fino a luglio inoltrato, sarà puntualmente consacrato alla febbre. 16 gennaio, la prima domenica di campionato. Il bilancio è scoraggiante, molti incontri sono saltati a causa delle difficoltà organizzative. Mancano mezzi e denaro, alcune squadre non si sono presentate e così molti arbitri. Ma la Federcalcio non demorde. Con qualche ripescaggio dell'ultima ora, il 2 febbraio vengono recuperati molti incontri. Si inizia a delineare una classifica. Il Torino batte l'Asti 6-1 con una tripletta di Mazzola. I calciatori pompieri di La Spezia esordiscono il 13 febbraio a Busseto. Hanno chiesto e ottenuto di essere dirottati nel girone emiliano, dove giocano avversari più abbordabili e che appare anche meno rischioso. Comunque sia, a Busseto i vigili pompieri spezzini incamerano i primi 2 punti. Una settimana dopo, nell'unico incontro che si disputerà all'Alberto Picco di La Spezia, battono di misura anche il Parma. Il comandante dei vigili del fuoco, Gandino, di fronte all'intensificarsi dei bombardamenti, è costretto a trasferire la caserma in periferia, a Pegazzano, dove mezzi e uomini alloggiano in una cava naturale che funge da bunker. Gli uomini di Barbieri devono rassegnarsi a disputare gli incontri casalinghi sul campo neutro di Carpi, vicino Modena, e a partire per ogni trasferta con un mezzo di fortuna. Sull'autobotte, sarebbe la botte sotto, sopra ci avevano fatto un piano tutto di legno. Ci abbiamo messo delle tavole sotto, le abbiamo allargate e ci si sedeva sotto, ma lì noi, una metà di qui e una metà di là. Noi ci prendeva l'acqua, il vento, tutto si prendeva, non si viaggiava difesi. Rispetto ad altre squadre, comunque, lo Spezia può dirsi fortunato. In quel difficile inverno del 44, infatti, i giocatori pompieri, impegnati in lunghe trasferte, si ingegnano per sfruttare al meglio la capienza della loro autobotte. Ci andava via con l'olio e il sale e si vendeva in questi posti dove si andava a giocare, che sapevamo che avevano questa debolezza di non avere né sale né olio. Primavera 44. Nelle valli alpine dell'Appennino si susseguono le azioni partigiane e le rappresaglie nazifasciste. Di fronte alla rilevanza militare assunta dalla resistenza, il feldmaresciallo Kesserling assume il comando della lotta antipartigiana ed emana un'ordinanza a tutte le sue unità. Un intervento troppo deciso non sarà mai causa di punizioni. Una rapida punizione è più importante dell'invio immediato di un rapporto. Tutti i comandi responsabili devono usare la massima durezza nella persecuzione. 7 aprile. Sull'Appennino Ligure, a pochi chilometri da dove i giocatori dello Spezia si allenano, si consuma l'eccidio della Benedicta, un convento dove i nazisti massacrano 75 renitenti alla leva. Anche nelle città regna la paura. La caccia all'uomo prosegue porta a porta. Mi ricordo una volta ero in centro e chiusero tutto il centro e portarono via, ma centinaia di uomini. La prosecuzione del campionato è in forse. Appare chiaro, ad esempio, che dopo lo sbarco di Anzio e l'inasprirsi della battaglia per Cassino, difficilmente Roma e Lazio approderanno alla fase finale del torneo. Gli stessi dubbi valgono anche per le più accreditate squadre toscane, il Montecatini e la Lucchese. Sorprendono invece le piccole squadre, ad esempio il Faenza, che riesce a mantenere tutti gli impegni sportivi. A sud, intanto, gli alleati hanno sfondato il fronte a Cassino. Inglesi ed americani si stanno sfidando per chi arriverà prima a liberare Roma. Il vincitore sarà il generale americano Mark Clark. Ma mentre il fronte si avvicina pericolosamente, il campionato di calcio è giunto appena alla fase interzonale. Ci sono ancora tutte le favorite. Torino, Juventus, Ambrosiana, Bologna e Venezia, ma anche alcune sorprese come il Varese, l'Ampelea e i Vigili del Fuoco di La Spezia. Il 7 maggio gli spezzini battono gli emiliani del Suzzara con 2 reti di Costa e Angelini. La truppa è di buon umore anche grazie alle frequenti trasferte in Emilia, proficue per la Borsa Nera quanto avventurose. 14 maggio. Gli uomini di Barbieri subiscono la loro prima battuta d'arresto. A sconfiggerli è il Carpi. Proprio nella cittadina emiliana vengono raggiunti da una notizia tragica. Il giorno prima, uno spaventoso bombardamento sulla Spezia ha provocato 13 morti. Da questo momento in poi, la sorte della squadra si lega drammaticamente a quella della città. 19 maggio. I morti sotto l'ennesimo bombardamento sono 50. 22 maggio. Le sirene tornano a risuonare per tutto il giorno in una città spettrale. Il giorno prima, a Modena, i vigili del fuoco sono stati sconfitti 4-0. Spezia non fu bombardata solo una volta, fu bombardata diverse volte e tutta la parte, diciamo, a monte, cioè quella che riguardava lo stadio, dove poi venivano molti dei giocatori, perché nella parte di Pegazzano, Rebocco, quindi nella parte più vicina allo stadio, più prossima all'Arsenale, abitavano molti di quei giocatori e si crearono i danni maggiori. 28 maggio. Il Carpi, viste le difficoltà degli spostamenti e l'intensificarsi delle azioni aeree, rinuncia all'incontro di ritorno. Lo Spezia vince a tavolino. La classifica finale vede così i vigili spezzini in testa al girone della loro zona. Con loro avanzano anche Ambrosiana, Varese, Venezia, Ampelea, Bologna e Torino. Il mese di giugno segna un'ulteriore avanzata del fronte alleato. Gli americani liberano Roma. La Lazio, che pochi giorni prima si è laureata campione regionale, rinuncia senza troppi rimpianti a disputare il girone finale. In Toscana il Montecatini sembra destinato alla vittoria, ma l'approssimarsi del fronte rende impossibile lo svolgimento degli ultimi incontri. Il Montecatini si ritira. A nord invece si continua a giocare. Il Venezia mette fine alle velleità della sorpresa Ampelea, mentre il Torino si impone a forza di gol sulle squadre lombarde. I Granata avanzano come un rullo compressore. Resta dunque da designare l'ultima delle finaliste. Decisivo sarà l'incontro tra i vigili del fuoco di La Spezia e il Bologna. L'11 giugno le due squadre si affrontano nella partita di andata allo stadio Sterlino, nel capoluogo emiliano, sotto una pioggia torrenziale che non ha scoraggiato un folto pubblico. Tra le molte assenze nelle fila bolognesi spicca quella del terzino Dino Fiorini, arruolatosi nella guardia nazionale di Salò. La squadra, tuttavia, spinta dal tifo dei suoi sostenitori, attacca con determinazione. Le prodezze di Bani tengono a galla lo Spezia fino al 79esimo. Poi lo spezzino Rostagno scatta sulla linea del fuorigioco, entra in area e infila l'incolpevole portiere Vanza. A detta dei giocatori dei giocatori dirigenti del Bologna, il gol era in fuorigioco. Ma l'arbitro, il signor Poggi Pollini da Ferrara, convalida la rete. La situazione degenera rapidamente. I tifosi rossoblu, cui si aggiungono molte camicie nere, invadono il campo. La commissione disciplinare è durissima. Il Bologna perde a tavolino per 2-0. La partita di ritorno si annuncia per gli emiliani praticamente impossibile. Falcidiata dalle squalifiche, la squadra rinuncia alla trasferta. L'incredula compagnia di Ottavio Barbieri stacca il biglietto per le finali. 27 giugno. La Federcalcio è confinata in un piccolo appartamento di Milano, da dove il direttorio fissa le date per lo svolgimento delle finali del campionato. Si giocherà all'Arena di Milano dal 9 al 20 luglio. Barbieri chiama a raccolta i suoi. Si parte per Milano, dove ad attendere i finalisti ci sono le brande della locale caserma dei Vigili del Fuoco. Nel primo pomeriggio, quando i vigili raggiungono l'arena, gli avversari, i lagunari del Venezia, per un momento pensano di dover affrontare un gruppo di barboni. Ben presto però i veneziani scoprono che i vigili di La Spezia sono tutt'altro che malmessi. Al 31esimo la superiorità degli spezzini è concretizzata da Tori, che raccoglie al limite dell'area un cross dalla sinistra di Costa. Si gira rapido e lascia partire un tiro a mezz'aria che si infila alla sinistra di Valsecchi. 1-0 per lo Spezia. Il Venezia reagisce prontamente. A due tentativi di Alberti e Novello si oppone con la consueta bravura Bani. Poi, sul finire del tempo, è Vando Persia che sbroglia con sicurezza una serie di mischie. Siamo alla ripresa. I vigili alla distanza calano di rendimento. Al 66esimo i veneziani agguantano il pareggio grazie ad Astorri. Dopo il pareggio con il Venezia in vista dell'incontro decisivo con il super favorito Torino, Barbieri decide di trasferirsi a Brescia. Brescia era pulita, non aveva mai subito un bombardamento. Fino a che un giorno eravamo, suona l'allarme, si scappa, siamo in campagna, passò una formazione con finiva più di queste fortezze volanti, a un certo momento girarono e fecero uno di quei bombardamenti su Brescia, la fa paura. In casa del Torino gli animi sono meno preoccupati. L'allenatore Pozzo impegna i suoi ragazzi in una gara a scopo propagandistico a Trieste. Domenica 16 luglio 1944. Per i giocatori dello Spezia è la giornata decisiva. A Milano fa un gran caldo. Pochi minuti prima del fischio d'inizio, l'allenatore del Torino, Pozzo, fa visita agli avversari negli spogliatoi. E ci ha fatto un bel discorso, bellissimo, bellissimo, proprio Alla fine dice, però mi dispiace per voi. Noi siamo abituati a fare 3-4 gol per partita, oggi tocca a voi, a noi. I vigili del fuoco sono decisi a vendicare l'offesa di Pozzo. Alle 16 le due formazioni entrano in campo di fronte a poco più di 1000 spettatori paganti. Lo Spezia schiera Bani, Persia, Borrini, Amenta, Gramaglia, Scarpato, Rostagno, Tommaseo, Angelini, Tori e Costa. Il Torino risponde con Griffanti, Cassano, Piacentini, Loic, Elena, Gallea, Ossola, Piola, Gabetto, Mazzola e Ferrari II. Arbitra il signor Cipriani di Milano. Già dopo pochi minuti è subito chiaro che l'esito della partita sarà tutt'altro che scontato. Anche perché Ottavio Barbieri ha introdotto una novità assoluta. È stato il primo allenatore in Italia che ha inventato il giocare libero, che doveva essere un giocatore tra il portiere e la mediana, libero di andare a tamponare i buchi che si creavano. Al 17° del primo tempo, su rimessa laterale di Costa, Angelini raccoglie, palleggia e dal limite dell'area sorprende il portiere del Torino Griffanti. 1-0. La reazione dei Granata non si fa attendere, ma lo Spezia ha un uomo in più. Si trovavano questo libero dietro, che non sapevano da che parte spuntasse, che gli bloccava ogni volta sul limite dell'area di rigore, li bloccava tutti lì. Al 31° Ossola del Torino batte una punizione dal lato destro dell'area spezzina. Piola anticipa tutti e la palla va dentro, 1-1. Al 45° l'arbitro concede un solo minuto di recupero, quello osservato all'inizio della gara per i caduti della guerra. I vigili del fuoco recuperano un pallone a centrocampo. Costa avanza sulla sinistra, salta Cassano e centra. Angelini raccoglie da giusta distanza e batte il portiere Granata. 2-1. L'allenatore dei pompieri, Barbieri, chiama Tommaseo. Gli ha detto, lei si deve mettere in mente di seguire passo passo Mazzola. Deve fare marcare Mazzola a questa maniera. Lui le farà delle finte. Lei non guardi mai i suoi piedi, guardi il pallone. Siamo alla ripresa. Il Torino inferocito attacca a testa bassa, nonostante l'AFA che non dà tregua. Piola si libera più volte al tiro, ma Bani risponde picche. La squadra di Pozzo gira a vuoto. Convinti di fare una passeggiata, invece vinsero loro. Sono stati più bravi di noi, via. Alla fine della partita Pozzo venne nel spogliatoio nostro e mi venne a stringere la mano. Sono quelle cose che si ricordano, perché allora era commissario della nazionale italiana, e insomma la stretta di mano da parte di Pozzo era una medaglia al petto, ecco. 20 luglio 44. Quattro giorni dopo l'epica impresa di Milano, mentre sono in viaggio verso La Spezia, i vigili del fuoco hanno la conferma ufficiale. Il Torino ha battuto l'altro finalista, il Venezia. Dunque i nuovi campioni d'Italia sono proprio loro, i pompieri calciatori. 8 agosto 1944. Un comunicato della Federazione Gioco Calcio assegna ai vigili del fuoco di La Spezia il titolo del campionato di guerra. La città verrà liberata il 24 aprile del 1945. Lo scudetto invece arriverà ufficialmente solo il 4 gennaio 2002. Quella dei vigili del fuoco di La Spezia sembra una favola al lieto fine, un'eccezione in una norma fatta di tragedia, dolore e distruzione. Ma con altri protagonisti di quello strano campionato il destino non è stato così generoso. Quando inizia la stagione 45-46, la prima del dopoguerra, molti di loro mancheranno all'appello. Collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.